Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Si comincia! Balotelli è uno qualsiasi, cioè Balotelli è uno che fa parte dei 26 calciatori. Balotelli per me è uno dei tanti che, se sta bene e fa le cose che gli dico, può giocare, può andare in panchina o in tribuna. Se non le fa, come ho detto prima, e vale per lui e vale per gli altri, qui a Coverciano porta i girevoli, ci vieni una volta, non ci torni più. Io avrò modo di valutarlo, così come lui, ma anche Cerci, no? Sono calciatori che erano dei patrimoni, no? E in questo percorso di crescita oggi prevede che Balotelli sia qui a dimostrare che ci può stare in questo gruppo. Se non lo dovesse dimostrare, ragazzi, amen, ce ne faremo una ragione, però l'avrò valutato e magari mi sarò tolto pure il dente. Sì, resta il fatto che Balotelli comunque sta giocando a titolare nel Liverpool e oggi mi vedo costretto a chiamare tanti calciatori che non sono titolari nelle proprie squadre. Può essere anche un buon motivo questo. Forse anche meglio che Balotelli arrivi in un periodo non buono, no? In un momento sicuramente non positivo, però penso che si metterà a disposizione della nazionale. Lei ha sempre detto che prima di vedere l'aspetto tecnico del giocatore guarda molto anche quello comportamentale. Che ha fatto questo? Stanno uscendo delle foto sul nostro sito, ma anche nei tabloid inglesi, di una notte brava di Balotelli dopo la sconfitta con il Chelsea, alle 4:30 ha fatto in discoteca. Io so soltanto che quando ero allenatore di club, finita la partita, ognuno si comporta come meglio crede, a meno che non c'è un'altra partita dopo 2 o 3 giorni. Però, ripeto, non. Il problema è che adesso su ogni situazione si cerca di ingigantire. A me dispiace per lui, però, ripeto, oggi è qua e lui mi deve dare delle risposte qui. Lo giudicherò per quello che farà con noi. Non mi lascerò certo così condizionare da elementi esterni, però sapete benissimo qual è il mio pensiero, quali sono le mie regole e come sono ferre. Ecco, questo sicuramente su questo non transigo, questo è poco ma sicuro. Never ending Balotelli story. Cosa ci volete fare, ragazzi? Conte ci ha fatto questo regalo, lasciandoci parlare ancora una settimana di Mario Balotelli, non lo raccogliamo volentieri. Tra poco scopriremo anche la situazione sulla Piero Cormano, cioè il traffico fra 3 minuti. Ma Leo Turrini l'abbiamo convocato diffusamente per parlare di Sassuolo Atalanta 0-0 giocata sabato. Ciao Leo. Volevo anticipare il traffico? Sì. E dire agli amici di Radio 24 convocati, fate molta attenzione. C'è il giro Raikkonen. No, se passate nel tratto solito Piero Cormano eccetera, c'è un signore in bicicletta purtroppo sulla tangenziale. E voi direte: cosa ci fa un ciclista sulla tangenziale? Vi rispondo subito: è Montezemolo. È passato dalla Ferrari ai treni Italo, adesso vola con l'Italia, non gli resta che una squadra di ciclismo, si sta allenando. Quindi abbiate pazienza, se vi rallento un attimo, vedete di non travolgerlo. Sì. È lui, l'avvocato dei nostri cuori, ve lo dico, il traffico, Radio 24. No, ma Leo, aspetta, ma la multipla Metano dove l'ha messa? No, adesso sai che è passato all'Italia. Quindi lo so che è passato, ma la multipla Metano non ce l'ha più. Usa i low cost, perché pare che Marchionne, la multipla Metano, abbia decretato che il 20 di novembre scadeva l'uso aziendale ancora consentito agli ex presidenti. Adesso siamo passati ai low cost in volo, ma abbiamo anche la bicicletta, quindi ve lo dico, se notate un pedalatore su quella strada rallentate un attimo, è l'uomo che ha vinto 15 mondiali con la Ferrari, però cercate di rendervene conto. Allora facciamo così, sentiamo com'è la situazione su... ma no, certo che c'è il traffico sulla Pero Cormano, sentiamo com'è la situazione se c'è in giro Raikkonen, se c'è Montezemolo in bicicletta dove è parcheggiata la multipla Metano, e subito dopo Sassuolo-Atalanta, naturalmente, perché un commento di Leo Turrini lo vogliamo su Sassuolo-Atalanta giocata sabato 0-0, e poi Balotelli, e poi il briscolone, o io preferisco chiamarlo, perché ero un aficionado totale di Giochi senza frontiere, il fil rouge dell'ultimo Gran Premio di Abu Dhabi, e Mazzarri che fa soffrire Turrini come un cane. Convocati. Ecco Piantanino, il nostro dottore Roberto Scaltritti in regia, Leo Turrini al telefono, è festa. Leo? Sono sempre qui, attenzione a quella bicicletta sulla Pero Cormano. Io ve l'ho detto, è Montezemolo che pedala, va bene. Senti, ma da dove vuoi partire? Da Manaus, dove c'eri per l'ultima volta di Balotelli, diventata la penultima? Dal Fil Rouge di Abu Dhabi, o il briscolone come lo chiami tu. Da un'Emilia in cui si torna, si parla l'albanese, perché Taci, imprenditore albanese, pare interessato al Parma, oppure Sassuolo-Atalanta 0-0, scegli tu. Dunque, guarda, Sassuolo-Atalanta, poi dopo ti scioglierò un epinicio come avrebbe scritto Brera ai suoi tempi, perché è stato il quinto risultato utile consecutivo dei gloriosi neroverdi, mai accaduto da quando sono in Serie A. No, io volevo dire una cosa. Allora, io sono un interista di rito morattiano, no? Sono anche un ferrarista di rito raikoniano, sì. Sono anche un obamiano, da sostenitore di Obama, tu capisci come mi sento in questa fase storica. Mi restavano Genta e Pardo, devo dirlo, a tutti convocati, Radio 24. Poi ho visto Pardo in televisione che trattava Zamparini come un grande statista, sì. Come una sorta, voglio dire, di Winston Churchill del calcio planetario, e quindi sto perdendo anche voi. Adesso glielo dico, arriva, tra un po' arriva, glielo dico. A Pardo, digli che di fronte a Zamparini lo trattava come se fosse Churchill, hai capito? Lacrime, sudore e sangue per rilanciare il calcio italiano, grandi strategie imprenditoriali. Ma ragazzi, con quello che ci sta offrendo il nostro sconcertante presente, quindi senti, direi così, cominciamo dal briscolone di Abu Dhabi, così gioco in casa. Il briscolone, tu lo chiami il briscolone, io lo chiamo il Fil Rouge. Guido Pancaldi, Gennaro Olivieri. No, allora dobbiamo dire una cosa, che ormai lo sport mondiale, vedi il dialogo Pardo-Zamparini, no? Sì. Tocca delle vette sublimi, altissime. Questi di Abu Dhabi, no? Che sono i signori dei petrodollari, sono anche i proprietari del Manchester City, sono stati anche azionisti della Ferrari, ospitano lì nel deserto la Disney World della Ferrari, che tra parentesi è bellissima. Cosa hanno detto a Bernie Eccleston un anno fa? Noi ospitiamo il Gran Premio nella nostra oasi artificiale di Yas Marina, ma vogliamo che sia decisivo per l'assegnazione del mondiale, quindi fate come volete, ma non accettiamo che veniate lì nel deserto a inquinarcelo, no? Perché il petrolio non è sufficiente, con i gas di scarico della Formula 1 per una gara che magari non conta niente. E allora Eccleston, che come Zamparini, devo dire, è paragonabile a Churchill, cosa ha fatto? Ha detto benissimo, ci inventiamo l'ultima gara, vale doppio. Che è come se l'ultima gara di campionato di calcio valesse 6 punti, no? Che per noi interisti di Mazzarri dovrebbe valere 60 di punti l'ultima di campionato, sì. Però insomma diamo tempo al tempo. Allora si determina una situazione che è francamente comica, perché Hamilton ha vinto 10 gare quest'anno, il doppio del suo compagno di scuderia, no? Mm. Con quella che è sempre stata la tradizionale, diciamo così, classifica, metodologia di punteggio dell'automobilismo, ma di tutti gli sport a punti, no? Sì. Gli doveva bastare un qualunque normale piazzamento all'ultima tappa per laurearsi campione, invece no, perché c'è il briscolone. E quindi Rosberg potrebbe vincere il titolo, avendo di fatto conquistato sì e no la metà dei successi del suo collega. Tra l'altro Hamilton ha dei precedenti, nel senso che è specializzato nel perdere mondiali già vinti, penso nel 2007. Secondo me la notte del sabato ad Abu Dhabi non dorme stavolta. Sì. Hai fantasmi nel casco, nel letto? Sì, sì, ma non perché sia lì con la sua compagna, che è la cantante lì, quella smutandata, la Nicolette Schweitzinger, eccetera. Proprio non dorme dall'agitazione, capito? I fantasmi a volte ritornano, Stephen King, e quindi onore agli sceicchi che con questa trovata hanno ottenuto che l'ultimo atto del mondiale di Formula 1 sì. diventi un thrilling, hai capito? Tu pensa se Raikkonen, il redivivo Raikkonen, che ha rallentato per mesi migliaia di automobilisti italiani sulla Pero Formano, ma che adesso ha ricominciato a guidare, perché da quando gli hanno detto che andava via Alonso è rifiorito, no? Sì. È rifiorito, un altro uomo, un altro pilota. Pensa se nel deserto di Abu Dhabi, dove peraltro Kimi ha vinto con la Lotus, questo si mettesse secondo tra Rosberg e Hamilton, no? Mamma. Sai, una cosa da paranoia. Insomma, siamo messi così in zamparino. Io guarda, spero per lo sport tutto, non solo per la Formula 1, che Hamilton vinca questo mondiale, perché davvero un mondiale assegnato con il briscolone è qualcosa a cui non voglio pensare in nessuno sport. Leo, già che sei, aspetta che sentiamo anche Paolo da Milano, che magari è in coda sulla Pero Cormano. Buongiorno Paolo. Grazie per avermi convocato. Prego. Grazie. No, una considerazione veloce solo su Mazzarri, sì. su Inter, tecnica che magari avete già fatto, io purtroppo non riesco a seguirvi tutti i giorni. Se l'avete già fatta, tra qualcuno se l'ha già fatta, mi scuso. La considerazione è questa: visto che a me la difesa 3 non piace molto, e a meno che non hai lì Breme e Maiton sulle fasce, secondo me. Ritengo che togliendo uno dei tre ruvidi lì dietro tra Ranocchia e Juan puoi mettere un centrocampista che può essere Guarin, sì. e ritengo che un centrocampo a quattro Medel, Guarin, Hernanes, Kovacic, insomma, per me non sarebbe male, però purtroppo giocando quei tre dietro uno di questi va fuori, sì. e quando difendiamo Medel, che l'ha già fatto anche in nazionale, può essere quello che indietreggia e dà una mano, no, quando c'è da coprire. Sì, un pelo sbilanciato, Paolo. Guarin, Kovacic e Hernanes sono tre che non coprono tantissimo. Lasciare solo Medel a protezione, anche se di una difesa 4, mi sembra poca roba. Cioè, mi sembra un centrocampo comunque molto, molto offensivo. Ma d'altra parte, Mazzarri è il profeta della difesa 3, era stato preso da De Laurentiis proprio perché giocava in quel modo, ha sempre fatto giocare su squadra in quel modo, non credo che cambi adesso, ma stiamo facendo del male a Leo Turrini in questo modo. Mazzarri, fischiatore di San Siro, Leonardo, un grande classico, allenatore della primavera, si parla di Vecchi come possibile sostituto di Mazzarri, Mihajlovic per il futuro, non c'è pace per l'Inter. Ma vedi, io forse ne ho già parlato con te, è fuori discussione che questa tendenza a proprietà straniere, estere dei club, no? Probabilmente un trend inevitabile, in Inghilterra succede quasi da una generazione, i due Manchester, poi il Chelsea, eccetera, in Francia lo sappiamo. Io sono uno ancorato però ai valori sentimentali del pallone, non ho niente contro Toir, che anzi molto probabilmente anche delle idee interessanti di prospettiva. Dopodiché in panchina c'è questo Mazzarri, il quale ha scritto un'autobiografia con il mio amico Alciato, non avendo vinto nemmeno, spero di non sbagliare, nemmeno la Coppa Italia. Allora, se fa un triplete Mazzarri, cosa scrive? La Treccani, no? Tu questo volevi far dire. Se oltre al triplete vince altri scudetti e Supercoppe, fa una ma è il meglio che deve ancora venire, quello è il meglio che deve ancora venire. Ma a parte che quello è prima ho detto che sono obamiano, è uno slogan rubato a Obama che dice the best is yet to come, no? Chiaro. La notte della rielezione. Lo sanno tutti, no? Bellissimo, però voglio dire, se tu hai vinto, fai una biografia, un'autobiografia. Ma se insomma, come diceva Di Pietro, no? Se Briscola è coppa e poi all'ultima mano con Mazzarri in panchina dici che Briscola bastoni e viene a piovere, io tre coppe in mare, sono il tifoso, è chiaro che ci rimango un po' così, un po' deluso, hai capito? Allora fai un triplet, scrivi la Treccani. Ma Leo, ma anche tu, ma pioveva, si è messa anche la pioggia l'altra sera. Sì, ma anche questo, scusami, ma dai, ma povero Mazzarri, le ha tutte contro, capito. Anche Giove Pluvio, dai, fai il bravo. Però voglio dire, no, io non voglio scomodare il famoso slogan piove governo ladro, ma qualcuno non ha detto a beneficio di Mazzarri, la Treccani e tutto il resto, che pioveva anche per quelli del Verona. No, perché uno sente dire sta cosa e pensa, ma le squadre Verona tecniche sono penalizzate, quelli del Verona sono anfibi, non lo so. Cioè, io ho l'impressione, detto con molta franchezza, io voglio molto bene a Mazzarri, che però sia un attimino confuso, hai capito? Perché ho visto la partita di Saint-Étienne, no? Quella precedente, e lui alla fine ha detto: abbiamo fatto un'ora di grande calcio. Ma dico, ma allora lui ha mai visto giocare chi faceva il grande calcio? Non so, l'Olanda di Cruyff, no? No, così non scomodiamo paragoni nel presente. Quello forse era grande calcio, non l'Inter di Saint-Étienne, hai capito? Ci sono delle vie di mezzo, non essere così estremista. No, ma è lui che ha detto grande calcio, mica l'abbiamo detto noi. È lui che ha detto che il Verona non doveva perché il Verona giocano con l'impermeabile. Insomma, sono cose, ti dico, che ci lasciano un attimo perplessi, noi interisti di rito morattiano, però è un ciclo così. E vorrei citare Fortebraccio, che tu ricorderai, che sei un uomo colto, ti sei anche sposato nella ex Unione Sovietica, quindi capisci il riferimento politico, no? C'era una volta Gianni Agnelli dominante, eccetera. Fortebraccio scrisse in un suo corsivo sull'Unità a nome dei metalmeccanici: non riusciremo mai a sconfiggere Gianni Agnelli con le politiche sindacali e tutto il resto, ma verrà il giorno in cui i reumatismi di Gianni Agnelli ci daranno soddisfazione. Ecco, io volevo evocare Fortebraccio per dire: noi interisti, come faremo contro questa Juventus stellare? Affidiamoci ai reumatismi. Prima o poi Buffon, Pirlo, questi qui invecchieranno pure, sono già anzianotti, hai capito? Sì. E forse, insomma, verrà il momento in cui dovranno rinunciare a collezionare trionfi. Per però consunzione. È tornato Balotelli, siamo tutti felici. Leo, adesso ti saluto, ti ringrazio, ti abbraccio forte. E anch'io, adesso mi piacerebbe sentirti più spesso, però capisco che ormai tutti questi, diciamo così, affari di cuore che tu hai con l'ex Unione Sovietica. Ma sì, ma perché sono preoccupato per Capello? Io faccio tutto questo per Capello. Ti fanno dimenticare i vecchi amici, pensi a Capello che non viene Capello pagato. Non viene pagato da 5 mesi. Io sono Capello fortissimamente preoccupato per lui. Nel Parlamento di Mosca Capello è stato definito da un deputato un traditore della patria. Certo. Io vorrei però difendere Capello dicendo che Capello qualcosa ha vinto, ma non ha ancora scritto la Treccani. Ecco, questo, diciamolo a beneficio di Don Fabio. Ecco, che si sappia che se non altro Capello deve ancora vergare, diciamo così. Ma perché anche lì il meglio deve ancora venire. Ciao Leo. Questo sia tu Cam. Grazie a te, salutami Pardo e Winston Churchill Zamparini. Lo farò subito dopo e a Borsa. In bicicletta, attenzione, c'è molto zemolo tangenziale. Rallentate. Treni, aerei, automobili e adesso pedali. Ale. Ciao. Poi non ci scordiamo che siamo in emergenza, i ragazzi, era prevedibile che un po' calassero, comincia anche a piovere. Gocce di pioggia su di me, mentre cammino sono triste senza te. Oggi che farò? Hey, gocce di pioggia su di me, sul mio viso. Convocati. io mi auguro di non esonerarne mai più neanche uno, ecco, perché qualcuno meritava di essere esonerato. Quando sei in difficoltà poi prendi quelle decisioni lì. Iachini no, Iachini ha già rischiato? Ha già rischiato Iachini in questi primi tre mesi? No. Ma con me rischiano tutti, ecco. Però essendo diventato più vecchio, sono diventato un po' più saggio, penso che rischi molto meno. Vi racconto un episodio. Io ritengo che Balotelli sia un giocatore che non si è mai espresso da nessuna parte, perché quando io avevo Cavani e lo dovevo lasciare andare via, doveva andare in un grande club, proposi a Mancini, che era Manchester City, Cavani, e lui scelse Balotelli, e io gli dici che non capiva niente, perché ritenevo Cavani di molto molto superiore a Balotelli. Ferrero è spassoso, è veramente spassoso nel calcio, lo sto guardando, io dico che è un gran culo, perché è uno che arriva nel calcio, che non capisce niente di calcio, e si trova un grande allenatore come Jalovic e una squadra che gli hanno ridato i garroni che non ne potevano più, che rischiavano sempre di retrocedere, lui si trova lì terzo o quarto. Io penso che gli venga un delirio di onnipotenza e pensa di essere il dio del calcio, questo è l'unico grave pericolo che corre. Quindi ci vuol dire in anteprima chi vince il campionato, a parte che c'è anche il Napoli che è rientrato. La Juventus lo vince. Così è finito. Capito Britti, è inutile. La Roma lo vincerà l'anno prossimo. Alex, è Sabatini il segreto della Roma. La Roma è fortissima, ma bisogna essere capaci di vincere per vincere, non basta essere forti. Fate le due risate, li vedete tutti seri. Pierluigi Pardo. Come va? Ti devi difendere dalle accuse di Leo Torrini. Che dice? L'ho sentito ora, ha detto che ieri sera a Tiki Taka hai trattato Zamparini come un grande statista, come un Winston Churchill del calcio. No, non so se si riferisce alla straordinaria gag Mughini-Zamparini, che hanno cominciato a litigare senza motivo, e poi alla fine quasi c'è un caso diplomatico adesso fra Mughini e la Regione Sicilia, e chi ha visto la puntata lo sa, Mughini è siciliano, ma dice che vive benissimo a Roma, vivrebbe a Parigi, non vuole tornare in Sicilia. Zamparini gli diceva: ma vai in Sicilia che la qualità della vita è superiore. Insomma, una cosa sì, quasi irreale. Comunque già ti annuncio che la zanzara di questa sera si è già impossessata del file dell'audio di quella conversazione. Ah beh, chiaro. Ti voglio dire solo questo: il signor Cruciani. Ma tu raccontami invece il video, perché siamo rimasti in sospeso. Ieri non me l'hai voluto raccontare, giustamente hai tenuto i tuoi segreti, il video di Super Mario al Liberty Club di Londra. Sì, ma proprio di Balotelli vuoi parlare, io non ne posso più. No, io? Vabbè, ne parliamo. Sì, io. Ciro da Napoli, buongiorno. Ciao Ciro. Ciro? Ciro? Scappato. Hassan Verona, buongiorno. Ciao Hassan. Sì, ciao. Sì, buongiorno, buon proseguimento per la trasmissione. No, niente, vorrei parlare di due punti. Primo, di questa ambiguità di Conti praticamente all'inizio. Quando Balotelli giocava bene, segnava, non l'ha convocato. Adesso che non gioca bene, l'ha convocato. Io per Balotelli, perché giustamente è un patrimonio, perché ha fatto tanto nella nazionale. Conti ha provato due o tre attaccanti e non è a caso che ieri Zaza ha detto che Balotelli è veramente un campione. Questo è un punto. Il secondo punto della Coppa d'Africa, visto che sono successi dei problemi con il Marocco, praticamente si è rifiutato di fare per il problema di Ebola, ma fino a quando dura Isaia, tu che è il capo del calcio, dello sport africano, praticamente da una vita che è lì, e stati hanno problemi di andare avanti col calcio. Grazie, buongiorno. Grazie. Buongiorno, hai visto? Io poi io voglio del calcio africano non mi vedono particolarmente preparato. Su Balotelli, questa è una convocazione che non è meritocratica, però secondo me è una convocazione comunque che ha una logica. Chiaramente non è stato convocato il rendimento di Balotelli negli ultimi tre mesi, che non è all'altezza. È convocato il talento di Balotelli. È stato convocato il talento nella speranza che ha Conte di tirar fuori il meglio da questo ragazzo. È abbastanza sorprendente che avvenga adesso, perché ma ce lo potevamo aspettare due designazioni fa, ma adesso Balotelli apparentemente non ha fatto nulla per conquistare la nazionale dal punto di vista del rendimento, ed è anche vero che Conte sta per giocarsi la partita forse più importante di tutto il 2014, senza forze. Quindi questo è abbastanza sorprendente, però insomma io mi fido di Conte. Pier, però c'è un'oggettiva emergenza, a parte il fatto che comunque anche gli altri, insomma, Immobile due gol in Bundesliga, poi ha segnato tre gol mi pare in Champions League, però in Bundesliga non sta andando bene, come tutto il Borussia Dortmund. Destro gioca poco, 515 minuti se non sbaglio, 4 gol fin qui. Certamente meglio di Balotelli, 0 gol in Premier. Zaza ne ha fatti 2. Non abbiamo in questo momento Tevez. Abbiamo però Ciro da Napoli. 14:30 si parte tra poco. Ma inizia la sfida, ma è solo un gioco. Folla ai cancelli e spalti gremiti. Fai per un gioco antico. Di qualcosa tu. No, ti prego. Di cori, bandieri e vestiti. Di qualcosa tu. Fai qualcosa per me. 14:30 si mette il pallone. Ciro. Mi sento un piglio. Ciro da Napoli. Ciro. Sì. Eccolo. Allora, buongiorno. È insopportabile questa poesia. No, comunque. Vabbè, siamo ha abbastanza ragione. Siamo al di là dell'immaginabile, cioè cose che voi umani non avete mai sentito. 14:30. Allora, buongiorno a tutti e due, buongiorno. Grazie per avermi chiamato. Io sono tifoso del Napoli, tifosissimo, e chiaramente sono contento di stare lassù finalmente, dove ci merita. Contentissimo di Benitez, anti-mazzarriano della prima ora, quindi potete immaginare la mia doppia soddisfazione di questo periodo. Cioè, Mazzarri mette tutti d'accordo, eh? Esattamente. Mette veramente tutti d'accordo, tifosi del Napoli. Ma dove? Auriemma, per esempio, Mazzarri, patrimonio del mare Tirreno. Auriemma è mazzarriano, ma lo dice lui stesso. Vabbè, ma si contano sulle dita di una mano. Vabbè, è un momento difficile. Un momento difficile. A Napoli lo detestano tutti. A Milano non ne parliamo. Via Mazzarri, c'è ancora via Mazzarri dall'Inter, dalle parti della sede nerazzurra. Ciro da Napoli. Ma Ciro, però mi dico una cosa, un mese e mezzo fa stava totalmente comunque dalla parte di Benitez, a prescindere. Io totalmente sì, e i social almeno in questo ci vanno a documentare che dico la verità, perché io sono sempre stato dalla parte di Benitez. Uno che ci porta Galleon e Mertens non può essere che un buon allenatore o un buon talent scout. Quest'anno ci ha portato Koulibaly e secondo me la chiave di volta è David Lopez. E il centrocampo del Napoli funziona grazie a lui. È quello che ci mancava l'anno scorso. Cioè lo spernacchiato acquisto, il tanto spernacchiato acquisto di estivo, no? Ha ragione, però lui. Ha ragione, perché è un giocatore poco appariscente, ma che dà sostanza in mezzo al campo. Sì, però ricordi cosa dicevamo un mese fa, dai. Sì, di Koulibaly e di David Lopez e di tutti gli acquisti estivi. Guarda, io sul Napoli ho una teoria. Che il problema da tanto, diciamo dall'anno scorso, il problema non è mai stato particolarmente il centrocampo. Nel senso che se tu giochi 4-2-3-1, tu puoi avere un centrocampo di lotta più che di governo. E quindi il problema, secondo me, non è tanto quello. Il problema del Napoli, secondo me, è che prende troppi gol un po' stupidini, e questo è un problema che potrebbe esserci ancora, che non sono così sicuro che sia stato del tutto risolto, anche se nelle ultime 3 partite non ha subito gol ed è un segnale molto incoraggiante, però lì ancora certezze non ne ho. Ma sul centrocampo, sull'esigenza di questo grande centrocampista, secondo me sì, per carità, male non fa mai, no? Se riesci a prendere un grande in mezzo al campo, no? Se prendi Kroos, però non è così urgente, secondo me non è così tanto una priorità come la difesa. E David Lopez ha sistemato decisamente le cose da questo punto di vista, non ci sono dubbi. Ma secondo te come sono messe le cose a Roncobilaccio? Lo scopriamo adesso. Tutti convocati. Antonio, quanto ti hanno dato fastidio certe reazioni? Conte ha convocato Balotelli per lo sforzo che poi pagano il... Quelle sono veramente chiacchiere, cioè, di che stiamo parlando? Cerchiamo di parlare di cose serie, di calcio giocato, che affrontiamo una squadra molto forte come la Croazia, che abbiamo tanti infortunati, parliamo di cose serie, ecco, che penso che siano più interessanti e la gente abbia bisogno di sentire più notizie calcistiche che chiacchiere, ecco, da bar, come di solito dicevo in clima campionato. Tanto queste chiacchiere si facevano in tutti i bar d'Italia, però è inutile nasconderlo. Del traffico ci ha risposto? Hai sentito che ha cominciato un Roncobilaccio? Io mi sono commosso. Lo so anch'io un pochino. No, tu non ti sei commosso. No, ma io perché io c'ho il cuore di pietra, lo sai. C'è il cuore di pietra, capito? Da adesso in poi noi potremmo interagire col traffico, capito? Ma è un mio vecchio sogno, io vorrei interagire anche con la borsa. Ma tu sai chi è lui? Borsa. Perché io pensavo fosse una voce registrata. No, in diretta. È un uomo... Ma sì, ma c'è una grande organizzazione. No, io vorrei interagire con loro e anche con... Monica Lodi da Radio Cora, ma non me lo permettono. Intanto c'è Soriano e Bertolacci, hanno parlato spazio ai giovani italiani. Intanto leggiamo da tutte le parti questa storia, questa solita storia, no? Ormai è come quando d'estate si parla che fa caldo, si dice che fa caldo, l'inverno fa freddo e non ci sono più le mezze stagioni, non ci sono neanche più gli italiani in Serie A, perché nell'ultimo turno c'erano 132 titolari stranieri su 220, superati i 126 di un mese e mezzo fa, che era il record, quindi quasi il 60% di stranieri. Il problema è sempre il solito: non so se nel 2014 abbia ancora un senso parlare di stranieri o si deve parlare di comunitari, e poi io distingo sempre quelli bravi da quelli scarsi. Giuseppe Salerno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo spezzare un'arancia in favore del gran signore del presidente Moratti, che secondo me lui doveva fare diversamente, questa è la mia opinione. Sono tifoso da 59 anni dell'Inter. Sì. Secondo me il presidente, nel momento in cui aveva vinto il triplete, doveva mandare via tutti e prendere i soldi e dire: cari tifosi, abbiamo vinto, adesso dobbiamo ricostruire, partendo dagli giovani, dovete avere pazienza per 4-5 anni. Noi faremo una grande società, una grande squadra. Io sarei stato molto contento e avrei apprezzato tantissimo il presidente, che ha speso una vita per questa grande squadra. Ho capito, però innanzitutto l'Inter è una squadra, una società piena di debiti in questo momento, e lo sappiamo, e chi è arrivato ha detto 5-6 anni, e insomma, questo è stato il discorso che si è fatto, che è stato fatto, no? Correggimi se sbaglio, Pierluigi. Sì, io penso che il ragionamento sia questo. Io penso che il ragionamento sia questo, penso che chiaramente Moratti rimanga nel cuore dei tifosi dell'Inter come il presidente del triplete, il presidente anche delle sconfitte e della sofferenza e poi delle vittorie. Quindi sì, da questo punto di vista è veramente un personaggio letterario, perché non ha vinto e basta, ma ha vissuto sulla sua pelle prima i dolori, con annesse polemiche, le insoddisfazioni, le speranze, e poi è riuscito in qualche modo invece ad arrivare al trionfo. Quindi insomma sembra la trama di un libro, e quindi è ovvio che Moratti sia nel cuore dei tifosi. Penso che però insomma anche gli ultimi anni della gestione di Moratti non è che fossero anni di straordinario sperpero di risorse e di vacche così grasse. Mi sembra che Toir rappresenti in prospettiva una possibilità interessante. Certamente i risultati non lo sostengono, però mi ricordo pure, e mi piace essere onesto, che quest'estate, dopo la campagna acquisti, eravamo tutti molto intrigati, mi ci metto anch'io, ma non ero il solo a essere molto intrigati dal mercato dell'Inter. Quindi sì. Prima ha chiamato un ascoltatore che ha proposto difesa 4, cosa che con Mazzarri non avverrà, e un centrocampo con Guarin, Hernanes, Kovacic e Medel a dannarsi l'anima per coprire tutti i buchi. Tu la vedi un Inter così, o credi che Mazzarri potrebbe ripensare la sua filosofia? Io penso che Mazzarri sia in una fase un po' di confusione in questo momento, perché il livello di critica nei suoi confronti è veramente esagerato ed è veramente molto complicato. Non l'ho visto bene, sinceramente, non l'ho visto bene dal punto di vista anche tattico. Poi ci sono state delle cose nella partita l'altro giorno che mi sono piaciute, ad esempio la reazione dopo l'1-0, secondo me è stata da grande squadra, un ottimo primo tempo, senza veramente nessuna discussione. Io credo che lui deciderà alla luce della... Credo che lui debba andare verso la strada più semplice. Nei momenti di difficoltà si fanno le cose semplici, e questo è quello che mi hanno insegnato gli allenatori. Quando sì, le cose non però vengono anche facili, Pierre, nel momento di difficoltà non cambi il modulo con cui sei arrivato fin lì. Appunto. Non vedo un Mazzarri cambiare il suo modulo, cioè sarebbe il dichiarare una totale sconfitta. E poi anche dovesse cambiare modulo, non è che all'improvviso vanno tutti lì ad applaudirlo, sarebbe la stessa cosa. In più dovresti rivedere a furor di opinione pubblica è in una situazione tale che qualsiasi cosa faccia sembra, se sei bravo ti tirano le pietre, se sei cattivo ti tirano le pietre, sembra quella roba lì, nel senso che qualsiasi cosa faccia ci sarà qualcuno che non è d'accordo. Vediamo dove tira le pietre Gianluca da Pescara, prima di fermarci. Sì, due minuti. Sì. Gianluca, buongiorno. Sì, salve, buongiorno e grazie per la convocazione. Io vado un po' fuori dal seminato e parlo del Parma, che forse non interessa a nessuno, però no, forse è andato nelle cronache in questi giorni. Io volevo fare una considerazione che magari volevo sapere anche la vostra opinione. Secondo me, rispetto alla squadra dell'anno scorso, togliendo Gargano e Parolo che sono andati via, anche se Gargano l'anno scorso ha giocato pochissimo, la squadra più o meno è quella che era, che c'era l'anno scorso. Sì. Secondo me non vale meno di Empoli o altre squadre, quindi queste base 7-0 secondo me è un discorso mentale, e per me ci sono problemi seri a livello societario. Beh, a livello societario la società è sul mercato, tanto che la notizia di oggi è appunto quella dell'interessamento di questo Taci, imprenditore albanese, petroliere albanese, che nel 2009 era stato accostato al Milan, pare avesse offerto 700 milioni per acquisto del Milan, adesso vorrebbe il Parma. Quindi è uno di questi personaggi che tornano, personaggi non in senso dispregiativo, ci mancherebbe altro, insomma è uno di questi soggetti che, beh, qualsiasi parola dico sembra dispregiativa, insomma è uno di questi possibili potenziali compratori che ogni tanto tornano, ogni tanto, no? Spuntano anche. Ogni tanto spuntano fuori e vedremo, insomma la sensazione è che il Parma abbia perso dal punto di vista economico l'energia che aveva un paio anni fa. Ma questo valeva anche l'anno scorso, non dobbiamo seguire, sono due binari diversi, quello del risultato in campo e quello delle condizioni economiche. Il risultato in campo è chiaramente molto diverso rispetto a un anno fa, ci sono state partenze pesanti che hanno condizionato questa squadra, ci sono stati anche infortuni pesanti, la situazione di classifica secondo me non è catastrofica, è chiaro che il 7-0 fa molto male. Però insomma il Parma è ancora tanto della Donadoni, tanto Donadoni è stato confermato e questo è un segnale interessante da parte della società. Pier, dobbiamo fermarci, Bad Corner GR, poi torniamo insieme, vi aspettiamo qui. Quote e pronostici. Tempo di amichevoli internazionali in attesa delle gare che contano, con le qualificazioni a Euro 2016 che scattano nel weekend. Domani in campo alcune big che provano tattiche e uomini in vista degli impegni ufficiali. Alle 19:30 a Istanbul c'è Turchia-Brasile, amichevole del sapore nostalgico che nel 2002 ai mondiali nipocoreani valse la finale. Vediamo dunque le quote SNAI per questa partita. L'1, la vittoria dei turchi, è quotata a 4,95, l'X è a 3,60, il 2 invece con la vittoria del Brasile è quotata 1,65. Interessante anche la quota del gol, quotata 1,80, il no gol invece è quotato 1,90. Sempre domani alle 20 ad Oslo c'è la sfida tra la Norvegia e l'Estonia, con i padroni di casa che sono inseriti, lo ricordiamo, nel girone dell'Italia. L'1, la vittoria della Norvegia, è quotata 1,35, l'X è a 4,55, il 2 con la vittoria dell'Estonia, che è molto sfavorita, è quotato 7,70, gol quotato 2,35, no gol quotato 1,53. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi, ci risentiamo domani. Tutti convocati. Lo sai perché Gianni Maggio era così grande? Perché era italiano. Beh, anche per questo. Allora perché? Perché aveva più talento di tutti gli altri. Talento? Esatto. Io ce l'ho il talento. Certo che hai talento. Hai tutto il talento del mondo. E potrei diventare un giocatore? Puoi diventare tutto quello che vuoi. Ricordati, la cosa più triste nella vita è il talento sprecato. Puoi avere tutto il talento del mondo, ma se non fai la cosa giusta non succede niente. Invece se ti comporti bene, dai retta a me, succedono grandi cose. Hai capito? Mi sa poi di cosa è Reti del Maio 2, se big situation. Yeah, I'm different than Mario, so... What about Mario Balotelli? There'll be a lot of stories about him again. There'll be a lot of stories about him again. No malice, we need a challenge. The media say we are savage and we are callous. When we go at it, leave it damaged. Believe in magic, they hope we burn. The thought is tragic, the thought is tragic. Why always me? Why always me? Why always me? Why always me? I'm screaming, why always me? Why always me? Why always me? Why always me? Mario Balotelli. E io direi che Balotelli vive la sua gioventù, vive la ricchezza che è arrivata col calcio, però dipende da quello che farà. Se va in nazionale e fa due gol, ecco che ridiventa il campione. Ma dunque non è che nella nazionale italiana in questo momento svettino lì nel reparto d'attacco Maradona, Pelé, eccetera eccetera. No, non svettano. E allora che cosa succede? Conte fa bene a non chiudere il telefono, la linea telefonica con un giocatore di cui voi dite che ha un grande talento. Tu dici di no? Italia... Tu dici di no? ma io non lo so, ho visto raramente questo talento esprimersi in concreto, mentre invece avrò visto giocare 200 volte Pessotto, che ha giocato sempre bene. E di Pessotto però non si parla, perché alle 4 non esce dai nightclub. Io pensavo, quando voi avete fatto il servizio, che lo aveste beccato che usciva da una biblioteca. Il problema è che Balotelli da mesi, ma oseremmo dire ormai anni, gioca malissimo, delude sistematicamente. Non è che ha perso soltanto col Chelsea, ma è un giocatore nazionale, questa convocazione. Non la meritava, ma è stato costretto a chiamarlo Conte, perché siamo in tempi di quaresima totale, c'era, mancava un posto, hanno scelto lui. Se Insigne non si fa male, secondo me non lo chiama. 200k for a PA, same night flyback, airline BA. Hate in my face, but you know I can't see. Pierluigi, eccoci. Vorrei chiedere a Emiliano Mondonico se gli piace questa nazionale di Conte. Posso? Certo. Buongiorno. Buon pomeriggio a tutti. Reduce dalla domenica sportiva a luci rosse, Emiliano Mondonico, iniziata ai limiti della mezzanotte. Assolutamente. Diciamo che fisicamente tengo fino a 10, 10 e un quarto. Sei peggio di Balotelli. Come sono orari. Peggio. Ascolta, ti piace Ditemi. Questa nazionale? L'ultima, ma mi piace, sai, mi piace. Chiaro che la nazionale piace sempre. Il discorso è che Conte ci ha stupito ancora una volta, e ci ha stupito dal punto che si parla solo di Balotelli, non si parla più di della nazionale, non si parla più della partita con la Croazia, non si parla più dell'altra partita che magari non è stata fatta in maniera perfetta. Si parla di Balotelli. Io mi aspettavo Kaka a dire la verità, perché chiaramente la meritocrazia doveva passare da quel nome, e invece rieccolo in mezzo a mille distinguo, ancora qui a dire è il meglio di tutti, è il più bravo che abbiamo, forse è vero che è il più bravo che abbiamo, ma questo sta a indicare così le nostre difficoltà, perché chiaramente non basta essere il più bravo, ma a parole, ma bisognerebbe soprattutto dimostrarlo sul campo, sì. Ma questo è tutto un altro discorso. E poi intanto sbatterla dentro. Ecco, mi ha stupito questa convocazione, la nazionale mi piace, bisogna vedere fino a che punto Conte sarà in grado di dare la sua spinta, il suo valore aggiunto. Tanto più che l'avversario di domenica sera è una cosa seria come la Croazia. Poi c'è Moretti, Pierre, che 31 anni può essere anche un segnale d'allarme, la prima convocazione, no? No, vabbè, ma però sai, lì si tratta di meritocrazia, e perciò mi sta anche bene. Io non ho capito Conte quanto ho detto, che la nazionale deve essere come un piccolo club. Come una nazionale un piccolo club? Una nazionale deve essere come il club più grande che abbiamo, e perciò perché deve essere un piccolo club se poi esistono i piccoli club? Sì. La nazionale è la cosa più bella che abbiamo, la cosa più importante, quella che porta in giro il nostro calcio nel bene e nel male, perciò deve essere un grandissimo club, il primo club d'Italia. Penso che volesse dire piccolo club nel senso che si lavora poco, che si lavora deve ricreare in piccolo, senza la frequentazione quotidiana, le stesse logiche del club. No, però comunque quello che dice il mister è assolutamente certo, insomma, la meritocrazia è un'altra cosa. Detto questo, io penso che Conte, cioè, trovo allucinante e volgare pensare che abbia convocato Balotelli per un discorso dello sponsor tecnico. Io penso che sia molto diverso, lui lo vuole recuperare, e magari in un momento così difficile, in un momento di pressione così forte, trova un senso tutto questo, no? È quasi un torture test, come dicono gli esperti di marketing, no? Cioè un test in condizioni, uno stress test in condizioni estreme. Balotelli già c'ha i suoi casini, già c'ha i suoi problemi, non è amato a Liverpool, è in discussione, e adesso ha questa clamorosa opportunità che poi bisognerà capire, perché sarà titolare. Voi che idee avete su questo? Insomma, dei dubbi ci sono. Sarà molto difficile, no, vederlo titolare. Però è anche vero che Balotelli è uno complicato da tenere in panchina mediamente, no? Poi magari Conte ci riesce in grande serenità, però insomma non lo so, secondo me si è cercato insomma, mi sembra un impiccio sta cosa, mi sembra un impiccio, però è chiaro che se poi lui riesce a recuperare Balotelli, la parte migliore di Balotelli, fa un regalo enorme a tutto il calcio italiano, eh? Questo è evidente. Senti, volevo chiedere un'altra cosa a Emiliano Mondonico, sono molto di moda ovviamente le formulette nel calcio, formulette numeriche. Poi intanto arriva uno come arriva Maradona, UEA, Berti, Tevez, Elkier, o magari Marinelli in Lega Pro, o Benajà della Cimitarovese, e ti ricordi che il calcio è un'altra cosa con quei gol, come quello di Tevez domenica, Emiliano? Beh, è chiaro che costruisci la squadra attorno a questi fenomeni. I numeri sono quando non hai fenomeni a disposizione, allora devi fare dell'aspetto tattico chiaramente una prerogativa. Le piccole squadre, incontrando le grandi squadre, è chiaro che devono fare della tattica un principio assoluto, perché se tatticamente la vuoi giocare come una grande squadra, vince sempre la grande squadra, e perciò se tu affronti qualcuno più bravo di te, è chiaro che devi adeguarti col tatticismo. Se affronti Maradona o Tevez, è chiaro che devi prenderne uno e dirgli: senti, stai un po' attento a quel tipo lì, facciamo in modo che non gioca lui e non giochi te. Uh-huh. Tanto se non giochi te, non ce ne frega niente. Se non gioca lui, è tutto di guadagnato. Sai quante volte proprio nel mettere in campo i giocatori c'è stata proprio questa marcatura ad personam? Proprio sì, stai lì e non gioca lui e non giochi te. Poi dopo facciamo 0-0, no, 0-0 no, però dopo no, ci sono gli altri. Però almeno non dai al fenomeno quella grande libertà che ti fa perdere per forza, che ti fa perdere a prescindere, e che al limite si rasenta l'umiliazione. Questi per i piccoli club, per i club dove non ci sono i fenomeni. Quando hai i fenomeni, è chiaro che va tutto bene, perché il fenomeno, perché tale, ti risolve tutte le situazioni, e perciò tu vinci e hai sempre ragione. Senti, ma Pierluigi Mughini quanto adora Tevez? Beh, molto, credo che non sia. E i tifosi della Juventus in generale, oggi ho visto sui giornali accostato a Platini, Baggio e a tutti quelli che hanno fatto la storia della Juve. Secondo me è un po' presto, Pier? È un po' presto alla Juve. Appunto, ma Tevez la Juve? Però Tevez lo conosciamo da anni. Tevez è un crack, come dicono gli spagnoli, no? È un giocatore incredibile, un giocatore fortissimo, è uno che ha vinto 17 competizioni se non sbaglio, è stato un leader in campionati importanti, delicati, ha vinto la Champions League, è stato uno da 29 gol all'anno del 2009-2010, insomma stiamo parlando di un giocatore clamoroso, con una personalità, un'esperienza incredibili, per cui insomma io la carriera di Tevez secondo me è una carriera che non ha bisogno di molte altre conferme e di molti altri trionfi. Anche se sai, prima di arrivare qui era quasi un incompiuto. Lui ha avuto un anno e mezzo, un anno di confusione, di difficoltà con Mancini, 2011-2012, chiuso a 4 gol, ma tutta la prima parte della stagione sembrava un separato in casa, quindi però al di là di quello, la stagione prima, che è 2010-2011, lui fa più di 20 gol e fa benissimo, e poi comunque anche subito dopo torna a essere protagonista, insomma, perché poi alla fine viene recuperato e l'anno successivo torna a essere un titolare inamovibile. Insomma, una parentesi negativa, allo United lo amavano, c'era questo famoso coro Argentina che gli facevano. Sì. È uno di quelli che sanno suonare il pianoforte, cioè voglio dire, è uno di quelli che ti danno una qualità superiore, c'è poco da fare, insomma, sa suonare il pianoforte, sa suonare anche la batteria, nel senso che veramente è di lotta e di governo. E sa suonare il tamburo, come diceva Eto'o, no? Esatto, in quella famosa intervista. Se devo suonare la tromba, suono la tromba, se devo suonare il tamburo e giocare terzino, suono il tamburo. Grazie Pier. Se devo suonare la chitarra senza corde, allora sarebbe eccezionale. Non tutti sono Emiliano Mondonico quando ha suonato con i Nomadi. Ti ringrazio. Mondo, ti rubo ancora una battuta invece su una posso chiedere di te, Tevez non è andato ai mondiali. Mm-hmm. Tevez, grazie alla Juventus, ha riconquistato la nazionale. Messi ha detto che ho piacere di giocare con Tevez, ma grazie a quello che ha fatto in Italia, a quello che ha fatto la Juventus. Perciò dire che il nostro campionato non vale niente, che il nostro campionato è la Cenerentola di tutto, alta moment. questo qui, grazie al nostro campionato, è tornato a essere quello che era, anzi, ancora di più. Anche secondo me, forse nel momento migliore davvero della sua carriera. Grazie Mondo, a presto. Grazie a voi, ciao. Come sempre, buon pomeriggio. Ciao, ciao, ciao Emiliano Mondonico. Volevo chiedere ancora una cosa della Fiorentina, ma mi è sfuggito. Pierluigi, la chiedo a te. Sì. A me sembra che una delle squadre del cuore di Mondonico, mi sembra che quella della Fiorentina sia un progetto vicino a una conclusione fisiologica. Cosa ne pensi? Sembra una crisi di crescita. La Fiorentina di sfighe ne ha avute e come in quest'ultimo anno e mezzo. Mi annoia ripeterlo perché sarà la 26esima volta, poi lo dico anche in una radio di Firenze, però è vero, cioè è oggettivo che la Fiorentina ha fatto due colpi in attacco, due giocatori che dovevano essere veramente la differenza, e questi due giocatori non sono stati mai utilizzabili. Non dimentichiamo che un anno fa Rossi era capocannoniere del campionato. Ma appunto, cioè con Rossi e Gomez al top, questa era un'altra squadra. Detto questo, mi sembra che ci sia stata una perdita di energia, probabilmente anche Montella, che comunque rimane bravissimo, sicuramente uno degli allenatori più innovativi che ci sono in Italia in questo momento, probabilmente ha un po' meno di presa sulla squadra. La squadra ha proprio perso energia, alcuni leader della squadra, ad esempio Barcavalero, stanno faticando più rispetto al passato, qualcuno ha trovato delle contromisure e secondo me bisognerà tornare sul mercato. Io la stagione non la vedo benissimo, io penso che al massimo la Fiorentina potrà lottare per l'Europa League, e penso che possa fare mercato a gennaio. Poi secondo me la Fiorentina comunque ha una società forte, spalle con le spalle larghe, con un grande gruppo dietro, quindi insomma, uscendo per un attimo dalla cronaca di queste ultime partite, guardando più complessivamente quello che è stato fatto e quelle che sono le prospettive, la Fiorentina la vedo bene, però quest'anno è un po' appannata, non ci sono dubbi. Grazie Pier, ci sentiamo domani. Ciao. Allora chiudo questo brano di programma con Marco da Frosinone. Buongiorno. Eccolo là, Angelo D'Alecco. Allora, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io dicevo che sono 50 anni che seguo l'Inter, anche di più, e praticamente gli interisti non cambiano mai. Perché ai tempi ancora di Bersellini, ai tempi quando io ero ragazzino, sì, c'era praticamente i tifosi che erano più educati magari, perché non gridava, però le parole le ha sempre dette. Perché io dico, non puoi essere un tifoso e fischiare la squadra da quando entra in campo a quando esce. Non dimentichiamo che cioè, anche Trapattoni finì nel mirino dei tifosi dopo lo scudetto dei record, ad esempio. Quello che sto dicendo, cioè, io non trovo comprensibile che uno debba fare una cosa di questo genere. A me piacciono le squadre che giocano, danno tutto, però dopo alla fine si giudica, no? Si fischia o si applaude. Quindi lei mi dice che le critiche nei confronti di Mazzarri sono incomprensibili? No, questa è un'altra cosa. No, non è proprio la stessa roba. Perché se i giocatori in campo giocano, purtroppo oggi non vediamo che non ha un gioco, purtroppo non ha un gioco questa squadra qua. E guarda l'ultima partita che abbiamo pareggiato col Verona. Negli ultimi minuti Mandorlini ha cambiato due giocatori, hanno cambiato la partita. Sì, questo è vero. Questo è vero. Mazzarri non sa leggere le partite. Senta, ma lei da interista chi vedrebbe sulla panchina dell'Inter? Perché adesso addirittura si fa il nome di Leonardo, che sarebbe un rientro clamoroso, si fa il nome della primavera, vale ancora il nome di Mancini e quello di Zenga. Allora, per tradizione l'Inter non ha mai avuto una società. Sì. E quando io dico società per dire a livello dirigenziale non ho mai avuto gente che ha saputo andare a prendere gli uomini giusti e tutto quanto, per cui si è sempre affidato a presidenti tifosi che hanno messo dentro tanti soldi. Ecco, e infatti l'ultima dimostrazione di Moratti, che ha speso una paccata di soldi, siamo riusciti a vincere perché prima di tutto ha avuto la fortuna di trovare un Mancini che è già un manager. Sì, e poi ha trovato il manager più bravo di tutti, che è quello che adesso sta in Inghilterra e che l'Inter non finirà mai di rimpiangere, insieme a Doriali peraltro, che è stato il nome più ricorrente sulla bocca dei tifosi nerazzurri come causa, con causa quantomeno delle ultime stagioni deludenti. Gabriele Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta. Dica. Sente. Sì. Buongiorno, volevo parlare di due argomenti, uno è Torres e l'altro è il presidente della Sampdoria Ferrero, sì, visti da un'angolazione diversa. Torres, volevo parlare di quello che ha detto lei qualche giorno fa, che è una figurina di Berlusconi, è un suo video sulla visita, un suo marchio. Sì, è il fiore che ha cercato di mettere all'occhiello del Milan nell'ultimo mercato, la presunta ultima superstar acquistata, quindi vuol far giocare. Lo vuol far giocare, però questo marketing può essere anche il contrario, se Torres non la sfrega può essere un marketing al contrario, non sempre può essere positivo, cioè se Torres fa dei gol si può travantare il presidente Berlusconi di questa nuova figurina che ha comprato, sì, ma se non segnerà oltre che quel gol che ha fatto, ma più che altro è il Milan che è l'intera squadra che in questo momento non riesce a supportare, non riesce ad esprimersi al meglio con Torres centravanti. Il Milan migliore che abbiamo visto in questo inizio di stagione, ed è oggettivo anche l'ultimo contro la Sampdoria, è quello con Menezza in quel ruolo, per lui molto strano, però è la squadra che funziona meglio. Marco, io la ringrazio, anzi Gabriele, la ringrazio, devo mandare la borsa e poi torniamo. Poi non ci scordiamo che siamo in emergenza, i ragazzi, era prevedibile che un po' calassero, comincia anche a piovere. Gocce di pioggia su di me, mentre cammino sono triste senza te. Oggi che farò? Hey, gocce di pioggia su di me, sul mio viso. Che lavoro schifoso. Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. Tutti convocati. È molto divertente da mettere in un occhio. Allora, qualcuno vuol sapere chi sarà il nuovo allenatore dell'Inter? Benissimo, ve lo diciamo noi, uno di questi, votate. Consapevoli del fatto che dobbiamo crescere tanto e la fine della stagione è molto lontana, per cui è un passo alla volta, cercare di migliorare quelli che sono i nostri difetti e tenere alta, come dicevi tu, la tensione e lavorare tutti i giorni sul campo. Stiamo lavorando bene. Io non penso che oggi l'Inter stia cercando un allenatore, quindi l'Inter sa, io sono molto legato al presidente Moratti, come lo sapete, penso che oggi ci sia un nuovo presidente che ha voglia di fare, diciamo, creare un nuovo modo di gestire una società. L'Inter passa per questo momento di transizione, ma non penso che Mazzarri sia in discussione. Qual è la panchina dei tuoi sogni? Hai fatto le panchine migliori, si è parlato della nazionale, altrimenti dove vai a finire? La Sampdoria o il Bologna? Sì, oppure... sono due squadre che hanno il cuore, quindi... Prima o poi, perché adesso quelle cifre lì che guadagni tu non... No, ma devo dire, la Samp è nata, almeno questo, il Bologna è retrocesso e questo, insomma, per me è un grande dispiacere. Perché alternative adesso non è che ce ne siano tantissime, cioè quelli che c'è, Mancini, ci sarei io forse, con Zenga secondo, Zenga, io con Zenga secondo, che purtroppo ho preso il patentino, non lo riesco più a trovare, non trovo più. Ma Zenga lo vedi adatto? Zenga potrebbe dare un entusiasmo a questo, che ne abbiamo bisogno in questo momento. Vecchi allenatori della primavera, Leonardo, Mancini e Berti, che si autocandida con Zenga vice o Zenga con Berti vice, se Berti ritrova patentino, insomma, una cosa di questo tipo. Marco Varese, buongiorno. Marco? Pronto, sì, eccomi. Buongiorno. Qua. Buongiorno a tutti voi. Due cose, se mi concedete. Vorrei fare per prima cosa i complimenti a Pardo, perché è un giornalista che mi piace molto, mi piace la teoria da... Sky, perché ritenevo che fosse il miglior giornalista sportivo di Sky, ma comunque va bene così. La seconda è, vorrei parlare di Mazzarri e dire che Mazzarri è veramente confuso, secondo me. La prova è che fa entrare Osvaldo a due minuti dalla fine, con un Icardi che fa la statuina davanti al portiere. Certo, ha fatto due gol, però sì, uno dei due. Beh, mi sembra fatto la partita meno adatta per criticare Icardi, questa, no? Non è un giocatore che ha fatto due gol, però ha fatto solo due gol. Per il resto, che ma cosa lui è un giocatore così. Icardi è un giocatore così. Infatti, prenderlo a lasciare è uno che fa gol. È uno che vuole la palla sui piedi. Solo che Osvaldo è uno che fa legna. E Osvaldo solo che Icardi solo... la legna non la fa. Lo so, Marco, però Osvaldo è anche reduce da un infortunio. Poi i momenti delle scelte, Mazzarri, torno a ripetere, dovrà fare delle scelte e prima o poi le faranno nonostante la contestazione. I momenti delle scelte sono vicini e a quel punto sarà Osvaldo, sarà Icardi, le caratteristiche sono note. Secondo me, io tra i due mi piglierei Osvaldo per una squadra come l'Inter, per diverse ragioni, comprese quelle tattiche. Allora, qualcuno prima mi ha provocato, ma perché non parlate di Reggio Emilia che batte Milano nel basket? Milano, peggio di così si muore nel calcio, nel basket, perfino nella pallavolo, dove c'è Monza che è ultima della classe. Luca Chiavotti, buongiorno. Buongiorno a tutti. E qualcuno adesso sottolinea, ieri sera Reggio Emilia ha battuto Milano con questo quintetto: Cinciarini, Mussini, Taylor, Polonara, Cervi dalla panchina della Valle, Cauchena, Selavrinovic, quintetto con 4 italiani su 5, età media 21 anni, praticamente un sogno. Sì. Però non sono così scarsi, Non è così. Ecco, perché qui sembra dire: mamma mia, Milano ha perso contro Mussini, no. Così. Della Valle ha fatto una partita strepitosa, direi quasi più in difesa che in attacco, quindi Cervi è un fattore sotto canestro, è veramente un fattore determinante, anche perché è l'unico ragazzo di 2,14 che abbiamo. Quindi diciamo onore a Reggio Emilia, anche se effettivamente, citando Meo Sacchetti dopo la sconfitta a Cantù, Milano ci ha messo del suo. Milano ci sta mettendo molto del suo in questo momento, ma probabilmente si sta allineando al trend delle due del calcio, Luca. Stanno semplicemente facendo fronte comune. Sì, per dare a questa città così soleggiata esatto, in questi giorni una speranza di... Esatto, di miglioramento, perché peggio di così, come dice quel film, cosa potrebbe succedere di peggio? Potrebbe piovere, no? Sì, però in realtà mi sembra di rivedere, pur con tutti i punti interrogativi, di situazioni come quelle di Gentile al Panathinaikos che non tira per tutta la partita, che ancora non ho capito perché. Mi sembrano di vedere delle analogie un po' con l'inizio della scorsa stagione, dove prima dell'arrivo di Daniel Hackett la squadra era più o meno così, aveva bisogno di sistemarsi in qualche modo. Adesso questo, probabilmente, sia questo dentro fuori, sia insomma, stanno sistemando delle cose. Certo, non si sistemano se poi si entra in campo come nelle ultime tre partite, probabilmente perdendo la partita all'inizio, con un impatto che ad Avellino sicuramente, col Panathinaikos anche ieri un po' meno, però uno si aspetta che Milano debba andare in campo a giocarsi le sue partite in un certo modo, sì. E purtroppo per Milano non lo stanno facendo, se non un paio di giocatori, tutti gli altri sembrano lì a vedere cosa succede, sono tre sconfitte di fila. Ma anche perché oggettivamente Milano è la grandissima favorita per questo, per il titolo italiano, difficile immaginare possa perdere, però per tutto questo è molto presto. In campionato perde un paio di partite, ci può stare. Il vero problema credo sia l'Eurolega, no, Luca? Beh, l'Eurolega però ha delle scuse, tra virgolette, abbastanza plausibili, che moriranno all'alba di giovedì se la Milano non vince, nel senso che Milano ha cominciato con tre trasferte nelle prime quattro partite contro Barcellona, Panathinaikos, insomma ha avuto un calendario molto, molto brutto e molto difficile. Adesso ha quattro partite in casa nelle prossime sei, va a Barcellona e lì può anche perdere, tutto detto tra di noi, gli altri le può vincere tutte, e quindi è chiaro che se gioca con l'impatto di queste partite che abbiamo visto, diventa problematico anche giovedì la sfida con gli insidiosi polacchi del Turov. Però ecco, lì la situazione è veramente un po' più elevata, e quindi direi che sì, si può essere abbastanza fiduciosi che le cose possano migliorare e non sia nulla compromesso, anche perché anche le altre squadre hanno avuto degli sbalzi, tipo Fenerbahce, cioè tipo queste squadre qua hanno avuto degli sbalzi uguali a quelli di Milano, quindi probabilmente è un'influenza generale, tu dici? Sì. È un'influenza generale. Intanto 5 giornate, prima panchina in Serie A che salta, non c'è di mezzo Zamparini, però a Caserta Lele Molin è stato esonerato, adesso transizione con Esposito Vincenzino che è in panchina insieme a Baioni, e poi si vedrà. Sì, beh, purtroppo questi inizi da 0-5 in situazioni così delicate pesano. Adesso vediamo Vincenzino, io credo che quella sia una squadra buona che come Milano non sta esprimendo con i giocatori il loro potenziale che potrebbe avere, dico come Milano, dicendo come similitudine, non come livello, sì, certo. Che è molto molto molto inferiore. Vediamo un po', mi dispiace molto per Molin, perché l'anno scorso ha fatto un lavoro strepitoso, ma abbiamo tutti la memoria molto corta in questo paese e in questo sport, per cui l'anno scorso e adesso è già pagato. E adesso è un'altra storia. Intanto c'è qualche buon tempone che fa notare via SMS che nell'NBA l'unica squadra a non aver ancora vinto una partita è Philadelphia, proprietario Toir. Vabbè, ma c'è il marchio di fabbrica. Cioè, diciamo che là forse hanno, se uno guarda il roster di Philadelphia si chiede come faccia a giocare nell'NBA. Sì. E quindi anche quello è abbastanza, forse persino ricercato dalla proprietà, delle stagioni così per i noti problemi tanking, non tanking, scelte, non scelte. Mentre qui credo che la situazione sia un po' differente. Grazie Luca, buon lavoro. Arrivederci. Ciao Luca Chiabotti. Convocati. Sentite suonare magnificamente, peraltro, è Vanessa Mae, violinista di cui abbiamo raccontato nel corso delle Olimpiadi Invernali con grande enfasi e con grande passione la storia, perché come sapete ha gareggiato alle Olimpiadi sotto i colori della Thailandia, e lei appunto fa la violinista di professione, molto nota, eccetera. Ebbene, la notizia di oggi è che è stata squalificata per 4 anni dalla Federazione Internazionale di Sci. Perché? Per aver truccato le gare di qualificazione ai Giochi Olimpici. Secondo la Federazione Internazionale, i risultati di 4 delle gare di slalom disputate lo scorso anno, scorso gennaio in Slovenia, erano stati manipolati in modo da migliorare le prestazioni della violinista sciatrice, che comunque a Sochi era andata, che non avrebbe potuto ottenere senza questa manipolazione i punti necessari per qualificarsi. Andata alle Olimpiadi, 67 concorrenti, è arrivata a 67esima, si è fatta una gran pubblicità e adesso smascherata. Nel parlare di basket, Luca Chiabotti, pensavo che siamo pessimisti per natura, però forse l'era glaciale è passata, con nonostante gli stranieri, le polemiche, le squadre che falliscono, un presidente della Lega che finisce in carica, che finisce imbischiato in storie precedenti relative a Siena, eccetera, eccetera, mille casini da un sacco di anni, però poi leggi un quintetto di Reggio Emilia, 4 italiani su 5, tutti molto giovani. Leggi quello che sta facendo Amedeo Della Valle, figlio del Marchese, della Valle, giocatore di Torino degli anni 80 e 90, un predestinato, 21 anni, un talento debordante. Poi vedi Berinelli campione NBA, vedi Gallinari che è rientrato. Forse l'era glaciale è passata. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Dica. Grazie dell'opportunità. Allora, intanto volevo fare un interventino sull'allenatore dell'Inter. Sì. Io penso che se andiamo avanti di questo passo, lo stadio si svuoterà completamente. Già è deprimente. Già non ci vuole molto. Non ci vuole molto. Siamo al limite della inferiore della capienza. Della capienza, quindi non riempiremo neanche lo stadio di Gusto Assis. Sì. È drammatico vedere gli spalti, è drammatico vedere quell'allenatore in panchina. Non ha niente dell'interista, cioè è uno che non c'entra niente con la storia dell'Inter. E inoltre, esprimo il mio modestissimo punto di vista, ho l'impressione che non indovini un cambio, che non si capaciti minimamente di quello che sta facendo. Quindi è brutto anche da vedere in panchina uno così, perché lo so che a voi non piace nemmeno fisicamente, lo so, ma lo... neanche fisicamente, bravissimo. A voi sta sulle palle qualunque cosa fa. Se vincesse la Champions League starebbe sulle palle lo stesso, perché Mazzarri non ha il physique du roll per fare allenatore dell'Inter, secondo voi? Io, giusto? L'unica cosa, sì, esatto, ma ha centrato esattamente il problema. Mi dica una cosa, lei da quando la pensa così? Io da quando questo allenava il Napoli, prima non mi ricordo dov'era, quando ho visto questa polpetta avvelenata che ci ha regalato Moratti, oltre ai debiti, arrivare sulla panchina dell'Inter, ho detto se già andavo poco allo stadio con la comodità di Sky, adesso allo stadio non ci metterò mai più piede finché quello resta in panchina, e così la pensano i miei figli. Devo dirle una cosa, sì. Che l'unico modo che ci sarebbe, secondo me, è una svolta, ma davvero una sterzata che dia un po' di passione e di entusiasmo, cioè? E secondo me ci sono due nomi soltanto. Uno è Leonardo, perché Leonardo quando è arrivato ha dato veramente una carica di entusiasmo, poi avrà fatto i suoi errori col Derby, con lo Schalke, però Leonardo è un uomo ha fatto anche un po' il giù di Scariota, volendo. Vabbè, d'accordo. Vero o no? Però Leonardo che è uno charman, che ha le physique du roll, eccetera, eccetera, queste cose si possono perdonare. A Mazzarri non si perdona niente, giusto? Mazzarri no. E l'altro sarebbe un colpo di scena, e potrebbe essere Clarence Seedorf, che addirittura è un'altra persona. E due. Sì, perché è un grande ex interista, purtroppo ceduto vergognosamente ai cugini del Milan, è stato uno dei più grandi errori dell'Inter insieme a Pirlo, ed è un uomo intelligente che potrebbe prima del derby, in modo da fargli uno sgarbo sarebbe peggiore. sarebbe fantastico. Non si illuda. Ho perso l'illusione. Grazie a Dio domenica non c'è il campionato, guardi da dove sono arrivato. Sì, c'è la nazionale con Balotelli a San Siro, volendo. D'accordo, ma ci si occupa di altro. Grazie a Dio ci si riposa questa domenica. Quella dopo c'è il derby, e io scommetto che molti interisti, per l'unica volta nella loro vita, ti faranno per il Milan. Io sono convinto che molti interisti in questo momento stiano tifando contro la loro squadra. E lei magari non tiferà per il Milan, però dovesse perdere, magari mandan via Mazzarri, ma sì, una volta tanto è servita qualcosa. Sono d'accordo con lei. Lo sapevo. Grazie Francesco. Grazie a lei. Questa era... in queste giornate abbiamo avuto alcune telefonate che sono, secondo me, un po' il manifesto dell'interismo e del comune sentire dei tifosi interisti nei confronti di Walter Mazzarri, che proprio il physique du roll per allenare l'Inter non ce l'ha. E questo è uno straccio, deteniamo lì. Poi tutti questi manifesti dell'interismo, pian piano ve li facciamo riascoltare tutti. Restano quattro nomi, li abbiamo fatti prima: Vecchi, allenatore della primavera, un grande classico dell'erotismo, si cambia allenatore, non si vuole spendere denaro e si prende l'allenatore della primavera, potrebbe anche essere Leonardo, non ci credo. Mancini, guadagna troppo. Berti, Zenga, vabbè, Ragazzi, forse è meglio che ci sentiamo domani, che torniamo a parlare di Balotelli, cosa dite? Grazie a tutti, Franco Piantarino, autore di questo programma, Roberto Scaltretti in regia, naturalmente tutti convocati, torna domani pomeriggio dopo il GR delle 2, ciao! Ma che buongiorno, allegri, allegri! È una palla curva, non la colpire, dammi retta, non colpirla! Bravo, sei grande, vai! La prossima palla è una veloce esterna, colpisci! Strike! Era la tua occasione d'oro! Lo so, l'ho mancata! È uno slider, non colpire, non ti muovere. Te l'avevo anche detto. È diventato più forte di me. Lo so, ti capisco. Non voglio niente fare di grave. È tutta esperienza. È lo stesso, Michael. Dai, non te la prendere, Michael. Devi avere pazienza. Lo stile c'è, Michael, e anche lotta. L'hanno eliminato, Mike. Ma sei uscito con classe, complimenti. Sì, tu conosci la dignità quando ti eliminano. Quando succede a me è così squallido, un incubo. Magari avessi il tuo stile, ti invidio, sai. Convocati.